Wall Street, i viaggi del lupo. E torniamo in onda con una nuova puntata di Wolf Trips. Finalmente sono tornato anch'io, per la gioia di Tony, visto che settimana scorsa ti ho visto un po'. No, è stata una puntata un po' diversa. Vabbè, un po' diversa, dai. Non è andata male. Vabbè, noi siamo Wolf Trips e in teoria sulla carta dovremmo fare un po' di scoperta musicale delle net label, però in realtà poi ci siamo allargati un po', abbiamo fatto un po' di scoperta musicale, punto. Quindi qualsiasi cosa che... quello che ci piace in generale. Ci piace, infatti. Infatti. Quindi ciao Cri, ciao Deborah, ciao Tony. Tra un po' arriverà Fabio 1, perché Fabio 2 lasciamo la casa perché è malato con i suoi germi. Infatti volevo fare, perché mi avevano scritto dal governo. Ti programma in quarantena? No, mi hanno detto che se devi entrare in radio devi avere il certificato con i vaccini fatti, altrimenti non puoi entrare. È vero? Io ce li ho. Ecco, vedi. Anch'io. Quindi potete entrare in radio, sennò ha detto che tornate a casa. Bene, essenzialmente benissimo. Così. Vabbè, direi che possiamo iniziare dopo. Capisci che sono rimasto una settimana a casa, chiuso in casa, quindi di cavolate da dire ce ne ho anche abbastanza. Non le potevi lasciare a casa, no. Per forza. Tu pensa come ero messa io domenica. No, sabato ho dato sabato il meglio di me, anche. Sì, ho fatto tipo 20 minuti di battute stupide una dietro l'altra, cioè parlavo anche battute domenica, stupide. Ma dovevi dire qualche strascico, era qualche strascico. Sabato era più il diciamo, cioè, il punto massimo. Lunedì le portate proprio in stazione, parto. No, vattene, vai. Non ti voglio più vedere, vai. Vabbè, comunque dobbiamo dire che abbiamo iniziato un po' in ritardo, ma non per colpa nostra, quindi finiremo un po' in ritardo, boh, vedremo, sì, vediamo quanta fame abbiamo. Tanta. Iniziamo ad ascoltare uno dei brani della Tony Selection. Così, proprio, sì. Tac. Il brano è di... Why you? E Moonlight. non sapevo dove interromperlo. Continua a cantare la canzone questa. Non la conosci? No, non la conosco, lui continua a cantare, quindi non so, bisogna batterlo, battetelo. Vabbè, comunque è bella, mi è piaciuta un sacco. Sì, come inizio proprio ho scelto a caso, ma bene, continuo così. Mi ricordano un po' i White Lies. Sì, sì, no, è un po' un genere particolare, un po' l'inizio dell'indie, sai quando c'era sì. L'inizio dell'indie c'era questa musica qua. Adesso è tutto indie. Infatti, non è più questa musica qui. Adesso sarà tutto techno perché ormai... Un po' si tende anche un po' alla techno. Vabbè, come è andata la settimana? Io vabbè, mi sono dovuto riprendere, quindi no, tu fai no, poverino, quindi... stavo male, ero un po' disturbato. No, io... tranquillo. Scusami, no, era un po' disturbato, hai capito? È un po' perché disturbato. Adesso non lo è. No, adesso non ho interferenze. Sei passato ad altri disturbi. Sì. Il disturbo passa per il corpo. No, vabbè. Invece voi tutto a posto? Sì, tutto bene. Vabbè, è la solita settimana, il solito tram tram, il solito, diciamo, bus bus. Lo sapevo che lo diceva. A proposito di chi ascolta il podcast in futuro, ok. Sappiate che è un'interferenza quello che è il passato, non era una battuta, ecco. Vabbè. Ricordiamo chi ci ascolta. No, bene, ricordiamo le cose importanti. Cioè, noi adesso siamo partiti qua in pompa magna, ma... Cioè, dice, ma chi sono questi qua? Infatti, chi siamo? Perché siamo? Ricorda un po' i contatti o quello che potrebbe essere un contatto con noi del terzo tipo. Del terzo tipo? Vai. Quindi il primo qual è? Il cellulare, il secondo Vai. Cos'è? Facebook e il terzo Instagram. Più o meno. No, allora, possono ascoltarci in ogni dove praticamente. Sì. Su Spotify, su iTunes, Mixcloud. Caspita. altre piattaforme comunque troveranno tutte non quelle queste... petrolifere. Tutte queste informazioni le possono trovare su internet, su Facebook, alla nostra pagina Wolf Trips Net Label. E poi ci possono seguire su tre radio. Su tre radio, Radio Vanessa, Radio Stella e Radio Lupo. Anche, sì. Anche Bocconi. E Radio sì. Bocconi, no, bravo. Devo valutare un attimino ancora un po' di cose, non so se è già partita la collaborazione. Vabbè, comunque potete ascoltarci un po' nell'etere. Ci trovano anche su Instagram. Sì. E... Scusa. Porca miseria, schiantai. possono dialogare con noi tramite Messenger oppure al numero di telefono 340-100-3617. Intanto qualcuno sta morendo. No. Niente, io direi che ci andiamo ad ascoltare subito il prossimo brano di una pop singer songwriter. Te lo dico così perché così. Che poi si chiama Lauren Salamone. Salamone, sì. Ma in realtà si chiama in arte Ella Voss. E il brano si chiama Ocean. Ocean, sì, Ocean. Ocean. Ocean. Across the high notte, effettivamente è buio, è notte. Siamo brava e brava, brava e brava. Stiamo aspettando ancora il tram. Pure tu. Eh sì. Fuori. Tram fuori. Di notte. Vabbè, sì, diciamo che questo qua è più un, diciamo, potrebbe essere un B-side di Wolf Trips, cioè Wolf Trips by Night, ecco. Sì, siamo iniziati, ragazzi. Siamo iniziati. Che italiano. L'italiano scorreggiuto. Da dove arrivi tu? Non lo so, perché le origini sono un po' miste. Ah, ecco. Vabbè, no, niente, il brano era molto carino. Lei si chiama, non mi ricordo già più come caspita si chiama. Ella Voss. Ella Voss con Ocean. Ocean, come cavolo si dice. Ma siamo stati cullati da questa canzone. Sì, è vero, sapeva un po' di onde da oceano, non da tsunami, proprio da roba calma e tranquilla. Quindi, visto che eravamo tutti belli e tranquilli, passiamo al prossimo brano. No, devi dire qualcosa. Ricordiamo anche con chi collaboriamo. Ma sì, ricordiamolo dopo, che dopo mettiamo anche il jingle. Perché hai fatto c'è il jingle. Ci vuole il climax corretto. No, ti voglio dire, prova a vedere qual è il prossimo titolo, il brano. Io sono andato a vedermi il video. Infatti l'ho visto il video. Allora, Netta con Bassa Sababa. Però aspetta, volevo dire, lei aveva vinto anche gli European Grammy Awards l'anno scorso. Tu lo sapevi sta cosa? Eh sì, infatti io mi ricordavo di averla già sentita alla sua voce. Lei da dove arriva? Mi sembra Corea, potrebbe Corea. Essere. Lineamenti. No, i lineamenti. Cioè, la sua origine sembra che sia coreana, però. Okay. Poi in Europa, non lo so, mi trovi un po' impreparato. Comunque il brano è strano. Infatti a me è piaciuto subito. Potrebbe rientrare un po' in quello che mi piacerebbe adesso mettere come musica, sinceramente. Potremmo anche fare un. Se si ascoltano le nostre collaboratrici di Instagram, darti un nome d'arte anche. Ecco, sì. Per i tuoi DJ set. Sì, lo so io qual è il nome d'arte dei DJ set. E DJ 8, vabbè, andiamo. Anche 9. No, tu dimmi in che condizioni io devo rimanere qua. Bam bam basabi, messi babasi, bismi wasabi. porta in alto la mano. Perché? C'è il mio perché capitano? Hai fatto questo gesto? Beh, ma bisogna fare un gesto per, diciamo, accedere poi alla parte parlata della trasmissione. Perché se non si fa un gesto, poi dopo rimane sempre tutto così nell'ombra. Questa era una frecciatina perché ha fatto regia la settimana scorsa. Ah, me dici? No, no. Ah, ok. No, no, no. Chi ha fatto regia la settimana scorsa? Perché se tu non fai nessun gesto, poi dall'altra parte non c'è comunicazione, non riesci a capire quando entrare uno, quando entrare l'altro. Questi sono i segreti della radio, no? Chi è che... Cioè, sì, chi sì, vedi, sì, sì. Ci vede dalla web che mi dice: ma questi che fanno? Che va? Salutano. salutare. Ciao. Salutare. Che non è. Vabbè, basta. Dai, sì, sto zitto perché ho già capito che sennò stasera rischio il linciaggio. No, dai. Sì. Okay. Non è che devi dire no, sì. Comunque abbiamo tante, in realtà abbiamo un po' di argomenti di cui parlare e dopo i prossimi brani, adesso metteremo ancora un po' di musica così a muzzo, come si diceva tempo fa, a muzzo, era una cosa vecchia, non te l'ho mai usato? Sì, a muzzo. Sì, no, io lo uso ancora. Per me non si usa più, penso, no, lo usi ancora? Io... No, io lo uso ancora per le mie origini. A muzzo, alla muzzatara, quelle cose lì. E... Sì, sì, anche così. Alla muzzatara. Questa allora. È nuova. No, sai che la settimana a casa gli ha fatto veramente male. Ma veramente. Pensa quando sono stato 6 mesi a casa. E, dai, a rate però, in 2 rate, 3 e 3. Vabbè. E, no, volevo dire che poi dopo, subito dopo avremo, ascolteremo un po' di musica di una net label. Dovremo anche riuscire a entrare in contatto con chi poi gestisce questa net label. Però nel frattempo comunque ascolteremo un po' di musica. Non vi svelo nulla, vi dico solo che loro fanno musica tra l'ambient e l'elettronica, quindi diciamo che in linea con quello che solitamente piace a noi, ci piace ascoltare e fare. Interessante. Vabbè, niente, intanto andiamo ad ascoltarci questo brano che è di Monarchy. Sì, Monarchy. Monarchy. Beh, no, è giusto. Ah, questo sì. Ma ricordo, io non lo sento, ma ricordo questo brano qua. Back to the Start. Praticamente è una canzone che ti fa iniziare bene la serata. Ah, perché beh, Back to the Start torna all'inizio, è un po' tipo il Monopoly. Sì, ma è bella ritmata. Ah, ok. This machine. cambiato, fai il saluto della regina. Sì, la vecchiaia comunque gioca brutti scherzi, perché questo brano qua, molto bello, era di Crooked Man, This Machine Kills Me. Kills me, Licia, no? Sì. Vabbè. Comunque, ti ricordi che avevamo guardato anche l'album ed era un po' macabro, no? Lui aveva fatto sempre delle produzioni molto macabre, non so perché. Vabbè, le macchine lo uccidono. È la traduzione del titolo. Stasera è difficile, la storia. Ragazzi, chi ci ascolta, non è una puntata registrata del carnevale. È uno scherzo del primo aprile, sì, già. Sì. Siamo a metà strada. Diciamo che potremmo essere live, non è Wolf Trips, per fare una menzione a una cosa che... Non l'avete capita, meno male. Vabbè. Meno male che non l'avete capita. No, non l'ho capito. Io credo che dopo quello che dovrei chiamare non ti risponde proprio, cioè. Ma veramente? Vabbè, facciamo così, torniamo all'inizio. Ecco. Si riprende al titolo della canzone precedente. Che doveva mettere prima. Ecco. Ma è giusto, perché io volevo tornare adesso agli inizi e quindi volevo ascoltare questo brano che era di Monarchy con Back to the Start. Oggetti che non usi più? Puoi cambiarli e dare a quelli usati una nuova casa. Portali al mercatino. Puoi venderli e trovare vere e proprie occasioni per cambiare salotto, guardaroba, cellulare o TV con i leader dell'usato. Esponi gratuitamente i tuoi oggetti ricavando dal 50 al 70% e riceverai i tuoi soldi subito.

E questo è il brano di Art Electronics Inside the Box. Ed è un brano dell'etichetta Suco Music, Suco Music, di cui dovremmo avere al telefono uno dei fondatori, non lo so, adesso gli chiediamo bene. Ci sei? Mi senti? Sì, eccoti qua. Ah, prima di tutto non ti sei presentati, non mi hai detto come ti chiami effettivamente, perché ti ho conosciuto sempre come Suco Music, quindi non posso dire c'è Suco Music, no? ok, niente, io sono Gaetano, sì, okay. Assieme ad altri tre amici siamo i fondatori e i gestori di questo Net Label, Suco Music. Perfetto, voi venite da Enna, abbiamo visto, che è un bellissimo posto. Profondo sud. Profondo. Ciao, io sono Tony. No, noi abbiamo ascoltato un po' di brani di tutta la Net Label e volevo chiederti un po' come è nata l'idea di fare, diciamo, questa etichetta, questa Net Label, non so, un po' la storia di questo progetto. Sì, dunque, nasce tutto dall'esigenza nostra primaria, perché tutti e quattro, chi più chi meno, siamo musicisti o comunque ci occupiamo di musica. Nello specifico, in due abbiamo sempre collaborato in vari progetti musicali, soprattutto appunto elettronici sperimentali, e avevamo anche avuto, diciamo, esperienze nel pubblicare musica nostra con le Net Label, per cui eravamo consapevoli del circuito e soprattutto della validità di condividere musica in maniera gratuita, anche perché si è liberi, diciamo, da etichette, qualsiasi condizionamento. Quindi ci siamo un po' guardati in faccia, abbiamo detto dai, proviamoci anche noi, e quindi insomma l'idea è partita da lì e abbiamo voluto dare appunto principalmente il taglio di musica che più ci piaceva, che comunque insomma con cui avevamo a che fare, quindi musica ambient, elettronica e sperimentale. Sì, noi abbiamo scelto un po' tutti e tre i generi poi da ascoltare. E, quindi comunque sono 6 anni, ho visto che siete un po' in giro, sì, sulla scena. Sì, settembre 2013. La questione comunque di produrre musica in modo gratuito, nel senso, vabbè, a parte la scelta che ho capito, perché giustamente è un po' anche quello che accomuna anche altre Net Label, effettivamente parlando anche con altri con gli altri progetti, effettivamente l'idea è sempre quella, nel senso, il fatto di produrre musica, di non riuscire magari a o di non volere di proporre la propria musica ad etichette maggiori e voler magari promuovere per conto proprio la musica. E volevo chiederti però, l'esperienza che hai avuto ti ha portato anche magari ad avere dei contatti per fare qualche serata in più? Cioè, ti ha portato qualcosa in più o è solo una cosa personale, anche che dà molta soddisfazione? Quello sì, Sì, dunque sicuramente la soddisfazione, la percentuale di soddisfazione è assolutamente in maggioranza, possiamo buttare un numero, tanto 85%. Se devo sicuramente guardare al fatto che mi abbia dato occasioni di esibizioni live in più, no, ma voglio dire è anche naturale, anche perché soprattutto per quello che riguarda l'ambiente sperimentale non ci sono molti spazi o comunque molta richiesta, vado sempre su un discorso di festival o comunque di iniziative culturali o musicali che devi o devi sbatterci tu la testa e organizzarli, o comunque devi andarteli a cercare tu in ogni caso. Però sicuramente a livello anche e soprattutto di conoscenza, visibilità e anche di utilizzo di musica in altri contesti come cortometraggi o cose di questo genere, sicuramente abbiamo avuto dei riscontri. Io, vabbè, essendo musicista, appunto, ci sono anche i miei release nella Net Label, quindi personalmente ho avuto anche riscontro di questo, e so che anche altri autori hanno comunque, diciamo, guadagnato in visibilità. In questo senso. Soprattutto a livello globale, anche perché preferiamo progetti locali, nazionali, ma ovviamente siamo aperti al mondo, come è giusto che sia. Va bene, noi andiamo a ascoltarci un altro brano e poi dopo ho ancora un altro paio di domande per te. Il prossimo brano è Finger Flood con Intruder. Thank you. Questo è un altro brano sempre dell'etichetta Suku Music, che pensando un po' alla provenienza della... ci sei Gaetano, mi senti ancora? Sì. Sì. No, stavamo pensando, no, l'etimologia della cosa. Credo che sia riferita al sugo, no? Succo. Esattamente. Tu come lo sai che sugo è riferito al sugo? Così, no, perché vedi, io ho l'accento, come dire, milanese, però in realtà anche io sono... Le parti un po' più basse. Siamo un po'. Benissimo, vabbè, anche la mia famiglia ha vissuto un sacco di anni a Bergamo. Ecco, sì, sono più per l'Italia. Ecco. Ciao! Intanto ciao. Sì, sono arrivati anche gli altri. No, poi effettivamente se tu vai sul... Se andate un po' a vedere, a sbirciare sul sito, sul vostro sito, che dopo lasciamo anche tutti i riferimenti per ascoltare, sì, i vostri, sì, brani. E beh, c'è il... come dire, il... La scatoletta di pomodoro, quindi. Sì, sì, sì. Vabbè, praticamente l'idea del nome nasce per caso, perché si riferisce proprio a un nome di un'etichetta che mi serviva anche, insomma, tempo fa, non relativamente alla Net Label. Insomma, la volevano per forza, allora mi sono inventato questa cosa pensando al suo. E quindi poi abbiamo fatto, io peraltro faccio il grafico, e ho pensato appunto, originariamente il logo era una, diciamo, un pomodoro, a forma di nota in pratica. Poi l'abbiamo un po' stilizzato, rimodernato, eccetera eccetera, e quindi sul logo attuale, però è sempre comunque un pomodoro. Quindi noi facciamo della salsa. Avrei una domanda. Ciao, sono la Cri. Ascoltami, come mai c'è una bandierina verde? Cosa sta a significare sopra il pomodoro? No, perché praticamente la foglia che indica la nota, in questo caso è una croma. Ah, non c'ero arrivata. La nota musicale ha questa, è vero, questa, è vero, piccola... sì. Sì, non c'ero arrivata. È bello, è bello. Ogni piccolo riferimento ha un senso. Sì. Quindi, io pensavo che... Poi, voglio dire, riferendoti alla barattola di salsa del pomodoro, sì. Perché noi praticamente abbiamo fatto qui in zona un paio di rassegne della nostra net label, presentando anche alcuni artisti che si sono esibiti. Tra l'altro uno addirittura si è esibito in streaming dalla Nuova Zelanda, è stato meraviglioso questa cosa. E noi praticamente, a chi è venuto lì, visto che il nostro imperativo è musica gratuita, abbiamo distribuito anche dei barattoli di salsa gratuitamente. È stata una specie di gadget che abbiamo voluto fare. Bella idea, Citazione Andy Warhol. Sì. Ah, è vero. Citazione di Andy Warhol, no, però è bella, originale. Sì. Ce la puoi spedire anche? No, volentieri, senz'altro. Scusa, già che ci siamo. Senz'altro, ci scambiamo gli indirizzi e ve la mando sicuramente. Vabbè. Ci fate una bella, non so, matriciana. E invece, tornando un po' alla musica, stavo guardando un po' le ultime uscite, di cui poi dopo mettiamo anche qualche brano. E, ti volevo chiedere, quindi la grafica, tutta la parte grafica la segui tu? Avete anche qualcuno poi che seguirà magari la parte di masterizzazione dei brani? Non so come... Sì, la grafica la seguo io, spesso facciamo anche noi le copertine, tra l'altro tre di noi hanno anche l'hobby della fotografia, quindi... Abbiamo materiale su cui lavorare, però quello che noi in genere, c'è la nostra linea, è lasciare completamente liberi gli artisti, nel senso che se loro hanno, diciamo, del materiale, lo facciamo liberamente usare, assolutamente. Così come pure anche per quanto riguarda la parte musicale. Dove è possibile, noi abbiamo anche, realizzato... alcuni progetti, non solo quelli personali ma anche quelli locali, in cui appunto le persone, gli artisti mi hanno anche chiesto di occuparmi qualora del mixing o qualora del mastering, quindi abbiamo fatto anche noi in casa quando ci sono state le opportunità. Ho capito. Perfetto. E poi un'ultima cosa che mi era venuta in mente, poi ascoltando anche un po' i brani, ma gli artisti sono, perché ho visto, per esempio, il prossimo andiamo a ascoltare si chiamano Tanks, quindi TNKS, sì, e ho visto, sì, che anche loro sono comunque di Enna. Ma sì, quindi tutti gli artisti li scegliete geograficamente vicino a voi o è stato un caso? No, diciamo? Assolutamente. Ah, okay. Non è, voglio dire, se ci sono progetti locali o nazionali o regionali, quello che è, sicuramente sono più che benvenuti, e voglio dire, è anche un modo per diffondere la creatività per quello che riguarda la musica ambient elettronica, okay, sperimentale, okay, nostrana, voglio dire, è un punto in più. Ma come appunto dicevo prima, siamo aperti al mondo. Perfetto. In questo caso appunto Tanks sono amici nostri, loro hanno cominciato questo progetto e insomma ci hanno proposto la loro musica e noi ben volentieri l'abbiamo accolta, tra l'altro ci siamo anche occupati mix e mastering. Ok. Tra l'altro questo brano mi piace molto, quindi ce lo andiamo ad ascoltare e poi dopo rientriamo per le battute finali. Allora, sono Tanks con Free Trip, sì. Ma scusami, Thank you. anche questo brano a me piace veramente molto, il brano dei Tanks, perché ho visto che sono un gruppo, e si chiama Free Trip. No, ma è molto bello i suoni, anche proprio la, non so, è rilassante. Anche, dal vivo hanno anche un bell'impatto. Gaetano, io intanto, io faccio di solito una domanda a tutte le persone che intervistiamo, se il luogo dove vivono poi rispecchia un po' la musica che loro fanno, cioè abbiamo varie persone di Avellino, così. Allora mi stavo informando un po' sulla tua città, Enna. Io sapevo che Enna è in alto, no? Dunque, è della... scusa, sento male. Ah, scusa. Quindi sapevi che Enna? È la città più alta d'Europa come capoluogo di provincia. Sì, capoluogo di provincia. Ecco, poi ho visto le vostre foto e sembrate tre berlinesi, no? Tre ragazzi di Berlino, che è un complimento per la vostra musica. Ecco, poi ho notato che Enna è la città più nebbiosa d'Italia. Dunque, questo clima... C'è comune in qualche modo. Cioè, questa... Cioè, mi sembra di essere a Berlino a questo punto. Questo volevo chiedervi. Se... più che a Berlino, soprattutto per quello che riguarda la nebbia, a Milano. Sì, sì, vabbè, certo, poi Milano... Nel senso, sì, appunto, siamo praticamente in montagna, in un alto piano di circa 1000 metri, e sicuramente la nebbia è uno dei nostri costanti compagni per molti mesi l'anno. Praticamente noi la chiamiamo affettuosamente la paesana. Sì, sì, infatti ho detto no, perché appunto penso che allora questo ambiente comunque ispiri anche la vostra musica. Cioè, questo ambiente... Scusa, sento molto male. Ah, strano, perché io ti sento benissimo. Voglio dire che il vostro suono deriva anche dal vostro ambiente climatico, come città. Sì. Cioè, sembrate una città del nord. Sì, ti posso dire con certezza che... I nostri suoni sono sicuramente, ma questo non solo per quello che riguarda la musica che trattiamo noi, ma anche, voglio dire, per chi c'è tanta musica che gira in città, sebbene il paese, insomma, voglio dire, non è popolatissimo, però c'è chi fa pop, c'è chi fa anche musica popolare, sicuramente abbiamo dei toni molto, molto più scuri, diciamo, che non nel catanese o nell'agrigentino come Tinturia o Palermo. Noi siamo sicuramente montanari. No, vabbè, bello, comunque si rispecchia benissimo nella vostra bellissima musica. Sì, senz'altro. Io ti volevo lasciare un ultimo spazio per dare un po' i vostri contatti, dove vi possiamo seguire o le prossime uscite. Poi andiamo ad ascoltare anche l'ultimo brano che avete rilasciato. Quindi ti lascio un po' uno spazio per parlare un po' del progetto. Ok. Dimmi pure, scusa. Ah, ok, niente, noi praticamente tutta la nostra musica la trovate gratis, in free download, su vari servizi, e comunque il punto di riferimento è il nostro sito principale, che è sukumusic.com, e insomma da lì potete sicuramente scaricare tutta la musica che vi piace. Abbiamo sia dell'elettronica, che dello sperimentale estremo, che dell'ambient assolutamente rilassante. C'è veramente tanta scelta su cui agire. E noi in genere le release che facciamo variano, non abbiamo, diciamo, un'attività frenetica in questo senso. Attualmente facciamo 4-5 release all'anno, 4-5 uscite all'anno. Preferiamo gli EP e i long playing che non i singoli. E niente, quindi seguiteci, c'è anche la nostra pagina Facebook, basta cercare su Music su Facebook, come pure su Twitter, ci trovate un po' ovunque. Dappertutto sui social, sì. Beh, il fatto di non fare tante uscite è positivo comunque, effettivamente, perché poi uno magari riesce ad apprezzare di più. Voglio dire, in parte è dovuto ovviamente alla mancanza di tempo, perché trattandosi di un progetto che non ha, certo, diciamo, sì, rientri economici, si basa solamente sulla pura passione, però ovviamente si devono fare i conti anche con la vita reale, quindi il tempo da dedicare a volte scarseggia, ma al di là di questo è anche abbiamo l'opportunità di selezionare maggiormente quello che più ci piace, okay, farlo andare avanti. Allora, noi ti ringraziamo di averci dedicato un po' di tempo anche per parlare un po' del vostro progetto, della vostra musica. Grazie infinite a voi, tra l'altro vi porto i saluti anche degli altri miei collaboratori, Tony, Luca e Vincenzo. Che dire, grazie veramente di cuore, anche perché quello che si può fare come lavoro di diffusione di musica libera, quindi anche quello che fate voi con il vostro programma, è veramente da apprezzare, da seguire e da sostenere. Grazie. A noi fa tanto piacere. Andiamo ad ascoltare il brano che è di Stephen Briggs, spero di averlo pronunciato dall'inglese correttamente. Dall'inglese zero. Neozelanda. Ok, è quello con cui che stavi citando prima, che aveva fatto il live, quindi in diretta, dicevi. Sì. Il brano si chiama Earthbound e dovrebbe essere anch'esso forse sulla elettronica, giusto? Qualcosa del genere, o ambient. Nello specifico Stephen è un chitarrista, quindi tutto quello che sentite, tra l'altro ci sono diverse release su Suku Music incentrate in questo senso, tutto quello che sentite è chitarra ed effetti. Perfetto, perfetto. Noi ti salutiamo e andiamo ad ascoltarlo. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Grazie, grazie mille. Ciao. Ciao. Yamamai, intimo

Era vabbè, nascosto dentro le cuffie di Tome. No, no, perché qua fuori onda è meglio proprio neanche citarli. Sono vietate ai minori di 14 anni, così ci dicono, eh? Sì, è vero, è vero, è vero. Ho visto un bollino rosso fuori dalla Radio Lupo. O era l'on-air o era quello che dicevamo noi. Io devo capire una cosa, chi è che mi ha staccato le cuffie? Io. Sai che io e te con le nostre cuffie abbiamo un rapporto... Vabbè, ma almeno riattaccamelo. Ehi, vabbè. Oh. Vabbè, dai, che ce vuo. Vabbè, Fabio, che ci racconti di bello? Ma di bello è che stasera qua dentro ho perso almeno un chilo. No, ma spieghiamo il rimuovendo, perché. Rimuovendo, perché la Cristina, come aveva visto, mi ha strappato un sopracciglio anomalo. Sì, un sopracciglio che mi cresce un po' più degli altri. Era enorme. Pesava tanto, da quanto pensavo. Ci fai legna con quel sopracciglio lì. Praticamente. E adesso io sto perdendo sangue dall'occhio destro. Sì, sì, infatti se vedete sulla diretta web è praticamente mezzo, è tramortito. Infatti volevo fare un annuncio a tutte le ragazze che ci ascoltano che sono infermiere, se volete venire a curarmi, io sono qua disponibile. Vabbè, ma sono niente. Le brave o? Ma va bene tutto. Cioè, dai, quando sei in sofferenza così, basta che guarisci, no? Basta, vabbè, che se volete uno spunto. Ecco, vabbè. Se volete guarire Fabio, vabbè, ci mandano un messaggio da qualche parte, no? 340-100-3617. Ah, pensavo che davi il mio numero di telefono diretto. No, cazzo, dal mio. Fabio, tu non hai persone da salutare stasera? Ma ci pensiamo dopo, va perché c'ho il telefono che squilla tanto. Va bene, dai. Noi salutiamo la Serena, che è la moglie del nostro amico di Ciao Distress. Sere! Ciao Sere! Ciao Sere! Ah, dobbiamo salutare Davide. Chi è Davide? Chi è Davide? È chi ci ha fatto mangiare alle 11 di sera. Grazie Davide, ti ringraziamo. Perché l'abbiamo aspettato dalle 6 più o meno, si è presentato alle 11 più o meno. 5 ore. Sì, non ti preoccupare, c'eri anche tu. Tony, c'eri anche tu. Ciao. Perché il pasto era buono, l'ha cucinato con grande amore e gioia. Sì. Cos'hai mangiato? Chi si ricorda? L'hamburger ha mangiato, come tutti. Oh, un hamburger di 5 ore deve essere proprio cotto bene. Fiamo molto lenta. E poi altre persone da salutare, vabbè, ce l'avevamo, non mi ricordo, porca miseria. Devo evitare figuracce, quindi vado a informarmi. Beh, intanto salutiamo anche la Sabrina Simone che ci ascolta sempre. Tra l'altro gli è piaciuto molto il tuo intervento sui Prodigy settimana scorsa. Yeah, grazie. Ah no, c'è Daniele anche, che ho visto. Dani, questa volta si è ricordata. Si è ricordata. E c'è anche un certo Andrea Miola che mi saluta sempre e ci saluta sempre. Ciao Andrea Miola, noi siamo con te. Ma che Andrea è un nome maschile, eh? Cioè, allora, scusate, Dani, forza Juve! Eccola là, che è arrivata. Io direi che possiamo continuare con il prossimo brano, che è Party Starter di Bakerman. Ma da dove suonano? Dalla PC. Ah, ok. Excuse me, Mr. DJ. Yes. Could you play something with a beat? What do you mean something with a beat? You know, something like a dance too. Get this party jumping as it can be. I came to get this party live. Are you with me? I came to start the party, cause I'm the party starter. So if that beat ain't knocking, let's get it knocking harder. Something else. came to start the party, cause I'm the party starter. So if that beat ain't knocking, let's get it knocking harder, harder, harder, harder. Boosters. E torniamo su queste note, no? Una delle mie preferite. Sì? Sì, sì, mi piace mi piace assai. Ti piace questo movimento sculetta? Tra l'altro, allora, tu che mi hai chiesto che da dove veniva questo DJ. E scommetto che tu ti sei informato subito. Allora, viene dal PC perché il PC riproduce la musica. Quello... Il paese è il PC. Però in realtà viene da... Piaci. È nato in un posto che si chiama Markelo. Ah, e dove si trova? In Olanda. Ah, è famoso Markelo olandese. Markelo olandese, sì, sì. Terzino della nazionale olandese. Certo, certo. Ah, sì, eccolo, sì, lì che l'abbiamo che trovato. Che ha fatto anche i gol in quella partita lì, sì. Sì, quella famosa. Bravi, bravo, sì. Bravo, contro l'Inc. Quello è bravo, sì, sì, sì. C'era Markelo. Beh, Markelo 2. Markelo 2, sì, sì, la vendetta. La vendetta, sì, sì, sì. No, a proposito dei film, perché dai, vedi, poi dopo mi tiri fuori la vena cinematografica, no? Cinofila. Quindi no, dipende, batte, eh? Dipende. Vabbè, ti sta battendo. Mi sta battendo, però ho visto, mi credo di vedere un reboot, perché adesso c'è questa moda del reboot. Scusami, ma cosa è sto reboot? Infatti ti sto per spiegare. Ti sto per spiegare. Ma perché io sono avanti? Cioè, il mio cervello pensa prima che tu domandi. Ma tu sei talmente tanto avanti che se ti guardi indietro vedi il futuro. Vabbè, praticamente il reboot quando... Sai che tu infatti prima hai detto Markelo 2, no? C'è la serie dei film, che so, Squalo, lo Squalo 2, lo Squalo 3. Quello è la serie Nightmare, dei film. Nightmare 1, fatto invece un film che si chiama Shark, che è il reboot. Cioè hanno ripreso la storia dello squalo, però ne hanno fatta una completamente nuova. Insomma, nel senso, non è detto che sia proprio un granché. Cioè, io vi consiglio di guardarlo, è bellino, però... È tipo da reboot via, da perché fa cagare. Da reboot. Ma no, cagare no, però diciamo che non è nemmeno questa grande pietra miliare della cinematografia. Girando su una TV online di cui non possiamo fare pubblicità, ho visto... Che ha quella che inizia con Net e finisce con Flix? Potrebbe essere. Quella che costa $7.99 al mese, un solo dispositivo, sì. Chissà se ci danno qualche abbonamento gratuito dopo questo. Mi raccomando, gratis a me, che io sono un grande utilizzatore di questa TV. No, l'ho visto, però sinceramente, a vedere un po' le immagini che giravano prima del film... Non mi ma questo sembrava... qua del Shark, bravo, dici? Bravo, non mi sembrava molto interessante. Mi sembra un po'. No, a me piacciono i film in realtà un po' truculenti, mi sono sempre piaciuti. Però, ragazzi, boh, insomma. Io non vorrei fare pubblicità, però voglio dire a tutti quanti: guardatevi su Burra. È spettacolare. Io non sono attirato da quelle serie lì, non lo so perché sono un po' così. No, invece, guarda, secondo me gli attori italiani, a differenza di molti altri fiction che si vede in televisione, che molte volte dico vabbè, recitano come recitano, è fatto bene, sono bravi. Ma sai cosa non mi piace a me delle serie italiane? Che poi dopo la gente ne fa una malattia, nel senso, io magari lo guarderei anche, però poi dopo pensare che c'è il gruppo di ragazzini che devono essere come Suburra o come Gomorra, e che poi fanno le magliette, fanno i fan. Sì, no, su quello ti do ragione, cioè è bello da vedere ma non da imitare. No, no, ma neanche da imitare, nel senso, diventa proprio una malattia, secondo me. No, ma sai, quando guardi alcune fiction, alcuni film, tipo Fast and Furious, uno di quelli che quando lo guardi dici adesso prendo la macchina e faccio un paio di drift. Sì, sì, appena inizi a fare questa cosa qua vedi la paletta che si alza. Bravo, però devi avere la coscienza di dire, vabbè, è un film... Fermiamoci lì. Ah, un film bello, brutto, bello, quello che è, però. Divertente, cioè. Ti è intrattenuto con fino al primo, secondo ancora. No, ragazzi. Ma il adesso 4. Ci sono le astronavi, cioè. No, il 4 di Fast and Furious, dove c'erano le asiatiche e la musica elettronica era fantastica. No, guarda, effettivamente, no, devo dire la verità, dovremmo fare una puntata solo sulla. Anzi, sì, solo sulla soundtrack di Fast and Furious Tokyo Drift. Perché prova a guardare se abbiamo la canzone di Fast and Furious Tokyo Drift. Nella mia archivio. Anche No, vabbè, si trova. Vabbè, dai, iniziamo. Però adesso ci spostiamo invece in Francia, quindi se dall'Olanda andiamo in Francia con un DJ che si chiama Jessal Feinstein, che è un mix anche con Einstein, mi sono andato a leggere la sua biografia, che ha collaborato con questa canzone, pensa un po', con Pharrell Williams addirittura. Ma a parte che lui collabora sì, un po' come Pitbull. Con tutti. E il brano si chiama Blast Off. You've been thinking about this all night, all week saying this was right. Crush your heart and hope to die. Are you sure you wanna pay the price? Do it outside in the night. It's where you go and is the life. When I'm looking in your face, oh, higher, higher. You give me faith, oh, higher than the sky. Stiamo ascoltando questa bellissima canzone. Ricordami di dove era? Francese? Francese, francese. Infatti, maledetto sentivo francese. Questo accento. Però in realtà secondo me cantava Pharrell Williams, che con la Francia non è che ci azzecca proprio tanto. Beh, ma sai che ormai lui collabora con tutti, no? Beh, amico poi con i Daft Punk. Bravo. Ragazzi, un applauso ai Daft Punk. Sempre. Ma uno, basta. No, ma io quando sento Daft Punk mi apre One More Time. La solita. Che tristezza, che sì. Tristezza. Allora, ragazzi, è come, lo so, è come se uno ti dice no, perché quando sento i Clash mi parte I Lost in the Supermarket. No, no, no, quello è il miglior pezzo dei Clash, ragazzi, è un rocker, dovete chiedergli quello. Eh no, ma la stessa cosa che tu hai detto, Daft Punk, credo che hai detto One More Time, sì. Daft Punk, non lo so, ci sono le, quello, quell'altro. Cioè, di chi è il telefono che ecco, suona? Infatti. Potrebbe essere il mio, ma non ditelo in radio. Ragazzi, un messaggio a Radio Lupo. Vediamo, vediamo. Chi è che ti ha scritto? Chi è che ti ha scritto? Allora, mi ha scritto... Tuo fratello. No, no, no. Ah, c'è posto per me, ci rispondo dopo, ragazzi, è roba personale. Ah, ok, vabbè, allora non entriamo nel merito. E niente, vabbè, quindi tu, Fabio, se ne stai per andare, no? Dai, ancora è presto. No, dai, ancora un 20 minuti che rompo le balle. Che fai, un'apparizione stasera? Sei pensi... Sono toccate fughe. Ragazzi, le star arrivano in ritardo e devono dare il meglio di loro in pochi, no? In pochi minuti. In pochi secondi. No, com'è che diceva Underworld? Ognuno deve avere 15 minuti di gloria. Di celebrità. Io ogni venerdì vengo qua a avere i miei 15 minuti di celebrità. Va bene. Però li moltiplico per 4, un'oretta sto qua. Perché sono 4 volte una persona. Beh, piano piano stai sparendo, dai. Dai. Ah, hai notato che sono dimagrito? Questo è vero. Ma perché? No, perché la Cri mi ha strappato qua il sopracciglio. E anche tutto il sangue che stai perdendo. Bravissimo. Ragazzi, se fate l'infermiere o le os, venite ad aiutarmi. Uè, guarda che ne hai una di fianco. Ah, è vero. Che non t'ha aiutato. Non dirlo che poi non vengono, anche te, no? Cioè... Io conosco delle donne che hanno fatto l'infermiere. Bravo. Fanno parte dell'associazione infermieri in pensione. Fabio, tra l'altro, ti devi accontentare senza dentiera, rendono meglio. Non si può dire in radio. Questo è detto dalla ragazza, proprio. Vabbè, dai, continuiamo, per favore. Vabbè, abbiamo capito. Sapete che quando arrivo io arriva il degenere, sì, no? Sì. Dove andiamo adesso? Torniamo alla musica, che cosa ci ascoltiamo adesso? Allora, io stavo cercando qualche informazione su questo DJ, su questo gruppo di DJ, solo che mi è uscito fuori che praticamente... Allora si chiamano Arre Arre. Ah, e mi è uscito tipo... fuori che Arre è un comune del Veneto. Ah, è provincia di? Veneto, del Veneto. Ma Veneto è la regione, anche te. Noi siamo internazionali, non possiamo dare queste notizie farlocche. Allora, Arre è un comune della provincia del Veneto. Scusate. Della regione del Veneto, nella provincia di Padova. E ha come sindaco Franco Casotto. Però mi sa che non è proprio quello che vogliamo andare ad ascoltare. Salutiamo Franco Casotto DJ. I viaggi del lupo.

molto tranquilla, mi sento rilassatissimo. Però prima di dire qualsiasi cosa, volevo dire allora che loro sono Eezu, che è un gruppo italiano di Perugia. Ah. Tale Riccardo Tesorini, che è musicista e sound designer di Perugia, e il titolo, che è Como Rebi, giusto Tony? È una parola giapponese che pensa te che mi sono andato a scimmiare tutte queste informazioni. Ma perché c'ho la redazione dietro che mi aiuta. Salutiamo la redazione. Ciao. Vuol dire Como Rebi, vuol dire la luce che filtra tra le foglie degli alberi. Cioè, tutta sta frase in due parole. Tra l'altro, se ti facessi vedere gli ideogrammi, sono quattro ideogrammi. Ma perché ogni ideogramma più o meno è un testo tipo la Bibbia, no? Sì, è vero. Cioè, ha un significato enorme. Vero. Come il tedesco, la parola vuol I'm dire... fine. Ma comunque in realtà è una parola molto particolare, perché racchiude tanti significati, vabbè, magari per noi no, però per i giapponesi è molto... Sì. Poi, ha un bel significato. Vedevo una volta su tipo Rai Storia, quei programmi lì di cultura, no? Strano, eh? No, ma guarda che io sembro un cretino, ma sono uno che legge tantissimo. No, lui sembra un cretino. Cosa leggi? Cioè, tu leggi guardando la TV. No, no, legge Kama Sutra. E che però mentre legge sembra un cretino, capito? No. Però sono uno che si informa. Gli ideogrammi, i simboli che fanno, è come se fosse un disegno del significato. Sì. Quindi tu con un ideogramma riesci non a dare una parola come facciamo noi europoidi, no? Ma è proprio un concetto nell'ideogramma. Rimasto sorpreso dalla parola europoide. Europoide è tutta la razza che deriva dall'Europa più parte della Russia e Asia. Mi sento scemo in questo momento. Vabbè, comunque salutiamo anche i nostri ospiti di questa sera. Catwoman, quella grande testa di gatto. Bravo. Comunque, volevo ricordarti, Domenico, che io mi sono innamorato di Catwoman. Chi non si innamorerà? Allen Berry. Ragazzi, la donna più bella del mondo. Ti ricordi quando anni fa hai fatto uno scherzo? Uno dei miei scherzi soliti. Telefonico, dicendo che era arrivato il libro del Kama Sutra. No, non me lo ricordo. Io me lo ricordo. E ci credo, è arrivata a casa mia. Sai che faccio anni scherzi fa che non ricordo. Avevi fatto uno scherzo che praticamente avevi chiamato questo ragazzo e gli avevi detto: salve, sono la biblioteca, è arrivato il libro del Kama Sutra. Ah sì, me lo ricordo. E questo ragazzo scherzo era interessato. Vabbè, non ho capito però il nesso logico di tutto ciò, quindi perché direi... Perché l'ho menzionato prima dicendo che Fabio legge Kama Sutra. Comunque cioè, è un testo importante che... Spiega non solo quella cosa che è così scontata, in realtà parla della cultura indiana, non è tanto... non è un manuale, capito? Certo. Ah, l'hai letto manuale anche tu? Manuale è una bruttissima parola. Sì. Specialmente per Manu. Vabbè, io direi che manualmente andiamo ad ascoltare il prossimo brano e usciamo da questa impasse. Ti usciamo, piace la parola? Allez! One, two, one, two, three, four! Across the floor, hey bro. if we just turn it up, dress it up, and make you feel like a million bucks, and we'll to make the puzzle fit. No, we not gonna leave you up out of this. We just gonna lead you up out of this. Clap your hands, dance for hours. We don't need no more wallflowers. Now if you agree, come on and scream at high love. Fancy free, you got to do what you got to, yeah. No, scusate, stavo facendo delle carezze a Catwoman. E io ti ho sculacciato. Sì, infatti, ho fatto una malata impressionante. Lunedì sono infortunio, non vado a lavoro, vi avviso. Sopracciglio, ogni... le chiappe che ballano. Io le chiappe che ballano non voglio sapere perché. No, cosa avete mangiato? Con tutti gli squat che faccio. Gli squat. Ma perché devi fare il culo come quelle delle Kardashian? Certo, c'ho il culo a Kardashian. La cria l'abbiamo persa adesso. Vabbè. Intanto adesso spero che si recuperi. Ah, comunque questa canzone era veramente bella. Sì, loro non so di dove siano, non so chi siano. Si chiamano Shaka Love You. Aspetta, però... c'è la redazione di quelle bellissime ragazze. Ma ragazze... non mi hanno dato grandi informazioni. Cioè, io ci chiedo, adesso vado io in redazione e do... Picchiale, perché non hanno trovato... Associazione giornalisti in pensione. Comunque loro hanno... Ma la notizia è vecchia. Comunque loro hanno prodotto molti dischi funk. Diciamo che il loro genere non si era capito, è proprio il funky. Beh, però un funk, po' la sonorità ricordava, no? Cioè, sì, un pochettino. Sì, dai, dava un po' al ricordo. Sembrava techno, però più fa una scherzo. Il rito. Bello, bello. No, è bello, mi è piaciuto. Va bene. Ma Tony, toglimi una curiosità. Anatoli, non è male. Sembra un russo. A me mi sembra una roba. Io occhio, ho detto, ragazzi, ma Tony, a parlare di russi. Quante associazioni fai parte? No, io no. Quella delle vecchie infermiere. Io le conosco, non è che. Ah, ok. Io sto entrando nell'età degli. No, a proposito di associazioni, invece è una cosa seria. Probabilmente adesso non so se. Perché ce lo stiamo contendendo tra vari programmi. Quindi poi chi gestirà la cosa ancora non ci ha dato una risposta, però in teoria dovremmo avere, non so se noi o qualcun altro, il primo che starà male, no, come un'associazione importante che è la Croce Rossa Italiana. E sì, io, sì. Noi ci eravamo offerti di dargli uno spazio, ma ancora non ci ha fatto sapere nulla. Ci siamo offerti quindi volontari. Quindi diciamo, ecco. che è un, come dire, è un post polemica questo. Calza pennello. Ragazzi, no, noi abbiamo una carta in più, io sono offeso a un sopracciglio, quindi se vengono qua a curarmi facciamo un'intervista. Non ci stasera. Sono infermiere. No, tutti uomini. Ok, andate negli altri programmi, non mi interessa. Vabbè, direi che iniziamo a concludere la serata. Andiamo ad ascoltarci ancora, penso, un paio di brani. Questo è Christian Loeffler. Loeffler, ma perché fa le Loeffler? Lo sapevo io. E pensa un po' che le fa come l'acqua, perché like water. Ah, quindi a spruzzo. Let's see. The tide is right. Do you change your mind? Do you go out there? Say that good advice and take your time. Thank you. Allora ragazzi, tornate dal bagno. No, ma devo dire che questa canzone degli Spruzzers è bellissima. Ma allora, poverino. Allora, lui è un DJ. Adesso la mia, diciamo, personale redazione sta elaborando tutti i dati in merito. Ed è un DJ stampata su carta igienica? Sì. È un genere Tedeschken, quindi il cognome non è che era proprio non è della zona di Gaetano, che salutiamo ancora, della Succo Music. Ciao Succo Music. Ah, tra l'altro tu te lo sei perso l'intervista, perché ovviamente tu arrivi sempre tardi. Ma Succo Music, secondo te perché? Perché lui ha il succo della musica, cioè bello. Vedi che intelligente Fabio, l'ho sempre detto. Guardate, io era proprio per quello. Adesso voglio dire una cosa seria. Io sembro un cretino, signori, però di giorno io sono una persona seria e quindi ho pensieri seri. Ma lui è un serio cretino, capito? Ma io faccio fatica a fare il cretino, però mi esce bene. Vabbè, andiamo avanti, raccontaci. Vabbè, un po' dopo di questa performance. Ci siamo fermati, vai avanti, dove, cavolo? Ti abbiamo lasciato, l'ho sospeso e tu dovevi continuare, no? No, ho perso, ho finito le parole. Allora, facciamo la prossima canzone, di che cosa parla? No, vabbè. Tagliamo corto. Mi sta ammazzando. Meno male che devo stare 10 minuti sto qua. Oh raga, sono meno 10. Sì. No, vabbè. Beh, dipende. Sono meno 10 se non ci stai ascoltando in podcast. Cioè, sono le 10 meno 10 se sei dal vivo. Ma se non podcast? Sei dal se sei dal se sei sul podcast può essere qualsiasi ora. Dimmi un orario. Le 4 e mezza. Sto lavorando, quindi torno via. Le 4 e mezza di notte. Sto dormendo, col cazzo che vengo qui a radio. Vai, dimmi un altro orario. Va, le 3.47. Sto dormendo e tra poco mi sveglio, quindi non romper le balle. Le 3.47, mezzogiorno. Le 5 e mezza mi alzo. Mezzogiorno, sto mangiando. No, sto lavorando. Ah, ok. A che ora è la pausa? Ma dipende, 1:15, 1:30. Ma tanto lui mangia come i canarini. No, ma perché è vero, io no, nella schisciata mi porto il riso, le lenticchie, i piselli, cioè. Con le lenticchie allora, chissà che bombardamenti. Ragazzi, io attacco alle 8:30. Ah, bam. Tra le 8:30 e 9:15 non chiamatemi. Just another thing I'm gonna do. Just another thing I wanna see. Fabio. Questa qui è la classica canzone da panda. E chi è abbastanza vecchio come me ha capito il perché. Kung Fu? No. E invece no. Guarda, Tony che ha un po' più anni di me ha capito il perché. Cos'è? La panda. La panda. Ah, la panda. Vai, vai, fuori. No, è vero, canzone dolce, un po' romantica, comunque ti fa ballare, momento fogli sul vetro. Brava, anche tu li usavi, grande. E mi è capitato una volta, sono riuscito in questa epoca così arcaica. No, io no. No? No, no, no. Cavolo, assolutamente, ragazzi. Non ho avuto la panda. Ah, beh. Non vabbè. I giornali. Vabbè, c'era la panda, poi il 106 andava bene, ho usato anche il 106, funziona. L'Ibiza vecchia, seconda serie andava benissimo. L'Ibiza vecchia, la punto seconda serie era già ancora buona macchina. Adesso la classe A non va bene. No, no, io dico che comunque forse era nata anche per questa cosa qua, non sto scherzando. Sì. La Twingo. La Renault Twingo, quando la mettevi giù tu, era un letto completo. Cioè, sì. È stata fatta anche apposta per certe cose. Sì. Sì, la Twingo, ti giuro che era però piccolina, ma dentro... La 7 Ibiza era fantastica, continuava a girare questa rotella fantastica che scendeva fino alla fine, cioè... Mamma. Che spettacolo! Ci mancano solo due cuscini rossi e sono a posto. ma sai, forse già dal nome Ibiza. E via, era tutto un programma quella macchina. Un po' tipo l'isola dell'amore, quindi. Vabbè, dopo queste cose da bischere di 20 anni fa più o meno, cioè, ormai siamo lì. Da vecchio, sai, sono proprio robe da vecchi. Ma io un po' mi sento vecchio. Ti senti vecchio un po'? Sì, io ascolto ancora i Green Day e gli Offspring, quindi vedi un po' te. Chi è che sono? Allora tu ti potrai iscrivere all'associazione Vecchi Ascoltatori Radio Lupo. Insieme alle quelle redattrici. Che tra l'altro settimana prossima fanno proprio una serata. Sì, le redattrici. No. No, io sono con loro, con la dentiera. No, dico, Radio Lupo fa proprio una serata di Remember, cos'è, Nautilus, Neuro. Cioè l'età media sarà quella. Allora, signori, se suona la Daria io vado, ve lo dico. No, chiamate la Daria, Modio, no, se suona io vado. No, troppo giovane. Che poi non ho capito perché Neuro, cioè la Neuro solitamente... Era un modo di dire, no, perché alla Neuro ci andavano i matti, al Nautilus andavano i matti. Ma Neuro, ma è sempre stato Nautilus, Neuro? Sì, era un modo di dire, la Neuro era il Nautilus. Ma io non me lo ricordo che... Symbol era la Neuro. Ah, ecco. Che era la musica. Non è il vero Nautilus. No. Noi che vediamo dalla rock era diverso. La Symbol era la Neuro. Cioè, piccola polemica, allora prendono il nome dalla Symbol che non c'entrava niente con noi. Vabbè. A quanto so io, la Neuro era la Symbol. Ok. Poi indagheremo. Per me la Neuro comunque è all'ospedale. Poi. Ma perché chi andava in quel posto là era da... Va bene, cambiando invece discorso, ti dicevo, questo pezzo volevo che lo buttassi un orecchio veloce, poi dopo lo so che devi scappare, poi dopo ce ne andiamo anche noi. E il gruppo, adesso stavo leggendo un po' sempre la redazione che mi dava delle buonissime notizie, loro sono i Fat White Family, che a quanto pare sono uno degli ultimi baluardi della musica punk inglese. Ah, pensavo che erano i Griffin. Griffin. Fight White. Quindi sinceramente non so neanche cosa aspettarmi da questo brano che si chiama Fit, però ce lo ascoltiamo e poi dopo in chiusura commenteremo un attimo. Yeah. us, we assume the best. Refuse every kindness, swallow your distress. Baby beats his chest so that he can hide that soaring precipice that is passing on its pride. When I look at women, what I see is other men. Fold them just like cattle, fold them like Sean Penn. The sea washed off my features, perfect mouth swans. Nothing to diminish and nothing to enhance. Gigi heavy tears in a Woody Allen dirt. This one's on a crusade, this one's stuck at work. I hope the children wash up blood on my shore. Caucasians see me in a sand nigger storm. Viaggi del lupo. E anche questo viaggio ce lo siamo fatti. Ma mi domandavo, ma chi è che fa la sigla? Questa voce così importante. se rimetti indietro la sigla si sente proprio che fa faccio così. Ma quello è un dialetto di Londra, dillo. No, è il dialetto stretto di Lombardia. Ah, ok. Pensavo Lombardia di, bassa però. Pensavo di Manchester. Ho detto anche Manchester. Manchester. No, non è Manchester. Vabbè, comunque siamo arrivati agli sgocci, alla fine della serata, siamo pronti per i saluti. Quindi tu chi saluti? Ah, ma io saluto tutte le persone che ci hanno ascoltato. La mamma, il papà, la qualcuna. Fratello. Qualcuno che era, girava per caso e ha detto: ma chi è sto cretino? Sono io, ragazzi. No, vabbè, salutiamo tutti quelli che hanno avuto interazioni questa sera con noi, con Wolf Trips, anche dall'intervista che io purtroppo non ho potuto seguire. Però me l'ascolterò nel podcast, sicuro come loro. E come l'ascolti? Con le orecchie. Con le orecchie. Dove lo trovi il podcast? Lo trovo da qualche parte, chiedo a Domenico in treno e me lo faccio dare. Oppure, anche se potete chiedere sempre a Domenico, oppure potete andare su Spotify, detto anche Spotify per gli amici. Ma Sputi perché Sputi? Sì. Ah, ecco perché. Su Spotify comunque trovano tutte le indicazioni sul nostro Facebook. Salutiamo anche Katia e Sara che sono un po' latitanti ultimamente. Ciao Katia, ciao Sara. Basta, direi che poi siamo arrivati alla fine. Salutiamo tutti quanti, ci diamo un grande abbraccio, vi voglio bene a tutti quanti. Grazie, ragazzi, Fabio. A venerdì saluti prossimo. E abbracci e ci sentiamo settimana prossima. Ciao. Ciao.